pericoloso per vari motivi. Provo a riassumerne due, quelli principali, a nostro giudizio principali. Innanzitutto dà la facoltà di attingere informazioni da una serie di soggetti, quali per esempio le società in concessione che hanno una concessione con lo Stato, ma anche per esempio con le università, e quindi danno la possibilità ai servizi di stipulare delle convenzioni con questi soggetti e avere delle informazioni anche, diciamo, in violazione dei principi della privacy e della riservatezza. È una fattispecie, sono fattispecie talmente invasive che destano ovviamente preoccupazione. In più, l'altro aspetto che davvero ci ha sorpreso è che vengono ad essere ampliati e rese stabili le diciamo famose scriminanti, cioè non vengono considerate come reato, cioè si dà la possibilità a esponenti dei servizi di informazione e sicurezza di porre in atto delle condotte molto pericolose, come per esempio non solo la partecipazione a organizzazioni con finalità di terrorismo sia interno e sia internazionale, ma anche con la possibilità di dirigere questo tipo di associazioni terroristiche. Tra l'altro queste sono fattispecie, e quindi per esempio detenere materiale esplosivo, fare addestramento sempre con finalità di terrorismo interno, oppure apologia di attentato allo Stato, insomma diciamo condotte che purtroppo a cavallo degli anni 60, 70 e fino agli anni 90 sono realmente accadute, e in quel momento non c'era questa scriminante, quindi non erano attività che erano sostanzialmente coperte dalla legge. Noi recepiamo qual è l'indirizzo della maggioranza e del governo, che ci dice sì, vabbè, ma noi vogliamo porre in essere queste possibilità, perché solo entrando, e questo è sostanzialmente quello che ha detto l'autorità delegata, cioè il sottosegretario Mantovano, solo entrando all'interno delle organizzazioni, in questo caso terroristiche, anzi arrivando ai vertici, si riescono ad avere le informazioni atte proprio a contrastare queste associazioni terroristiche. Io ripeto, faccio notare che tutto ciò è già avvenuto in Italia, sono state fatte delle stragi per cui sono morte decine e decine di cittadini italiani innocenti, e quindi tutto ciò non può che destare preoccupazione, profonda preoccupazione per entrambe le fattispecie. Poi mi faccia aggiungere brevemente che noi contestiamo sia il contenuto, quindi il merito dell'articolo 31, ma noi contestiamo anche il metodo con il quale si fanno queste modifiche alla legge 124, che riguarda il funzionamento sia dei servizi di informazione e sicurezza e sia dell'organismo che deve controllare, dell'organismo parlamentare che deve controllare, che è il COPASIR, il Comitato per la Sicurezza della Repubblica, di cui faccio parte, degnamente peraltro, ma ne faccio parte. Il metodo qual è? È di cambiare a pezzi quella legge, la legge 124, che tra l'altro è stata una legge che fu approvata e scritta in maniera bipartisan, cioè l'intero Parlamento concorse alla sua redazione, quindi tiene conto delle istanze sia dell'allora maggioranza e sia dell'allora minoranza, dell'allora opposizione. Invece in questo modo, cambiando la legge a pezzi e tra l'altro introducendo questi pezzi, questi cambiamenti in altri strumenti normativi, mi riferisco per esempio a un intervento fatto nel dicembre 2022 nella legge di bilancio per il 2023, che sostanzialmente allargava la possibilità di fare, sempre ad opera dei servizi di informazione e sicurezza, delle intercettazioni cosiddette preventive, cioè dove non c'è nemmeno una notizia di reato. In tutti questi casi non c'è una analogo e corrispondente rafforzamento dei poteri di controllo del COPASIR e quindi del Parlamento e quindi sostanzialmente del popolo italiano che si esprime appunto nel Parlamento. Tutto ciò ci preoccupa moltissimo e quindi stiamo conducendo da mesi una battaglia in Parlamento. Devo dire all'inizio abbastanza inascoltati, con più soddisfazione nelle ultime settimane l'opinione pubblica piano piano si sta interessando a questa situazione che, ripeto, noi riteniamo estremamente grave. Lei faceva riferimento a un'epoca storica del nostro paese, la cosiddetta strategia della tensione, che ha visto anche depistaggi e connivenze tra gruppi terroristici e apparati dello Stato, quindi insomma si capisce la pericolosità di questi meccanismi. E certo, è la strage di Bologna, alcuni depistatori della strage di Bologna erano esponenti apicali dei servizi segreti, del SISDE di allora, quindi parliamo purtroppo di fatti avvenuti, di fatti gravissimi, di fatti dolorosi, rossi che hanno segnato la nostra storia più o meno recente. Voi chiedete lo stralcio di questo articolo? Sì, perlomeno lo stralcio. Noi ne chiedevamo una modifica, abbiamo presentato emendamenti per modificarli, anche emendamenti che erano volti a favorire perlomeno la comunicazione di queste attività al COPASIR, proprio per consentire al Parlamento, tramite il COPASIR, il controllo di queste attività. Tutti i nostri emendamenti presentati alla Camera, a mia prima firma, ma anche a firma di altri colleghi, sono stati tutti rigettati, e lo stesso sta avvenendo in Senato, dove il disegno di legge è all'esame. Noi riteniamo che l'azione più semplice e più rispettosa delle preoccupazioni che stanno venendo su, non solo in Parlamento, quindi da vari strati della popolazione, sia quello di cassare questo articolo 31, quindi di stralciarlo, e magari poi procedere con l'approvazione del resto del provvedimento. Noi speriamo in un sussulto di dignità e di rispetto di questa maggioranza nei confronti dell'opinione di una fetta non piccola del popolo italiano. Certo.